Io? Dove sono? Dove siamo? Che anno è? Ma sei sempre qua, 2022. Dai. Prima puntata dell'anno, sì! Che non venite, che non sono più quelli che già ci vedono in te. Benvenuti ad una nuova puntata di 100 Celle Avengers su Radio Forte. In ritardo di un minuto, questa cosa mi tormenterà per tutto l'anno, perché la puntata dell'inizio dell'anno determina un po' tutto l'umore, giusto? Giusto? Giusto? Sì. Certo, abbiamo cambiato sede, abbiamo fatto tante cose per quest'anno nuovo, giusto maestro? È tutto cambiato, non è niente come prima, tanto è vero che alla mia destra saluto Silvano. Salve, buonasera, salve a tutti. Mentre alla mia sinistra saluto Virginia. Buonasera a tutti, non ti fare un cruccio di questo minuto, siamo in ritardo di 8 giorni in fondo. Hai ragione, si sente che c'è del fervore. Infatti manca Gabri e salto subito quindi a Betta. Buonasera e buon anno pieno di due. Molto bene, mentre non ha voluto prendere posto al posto di Gabri, no, forse perché no. Portava sfiga. Sì. Siamo molto scaramantici in questo momento ed è la professoressa Viola. Eccomi, ciao amici, ciao a tutti, buon anno. Bene, ci siamo tutti, non abbiamo neanche salutato. Esatto, c'è anche Iron Man con ciao. Noi e c'è anche... Sì. Alexa, okay. Ciao belli. Questo per non fare che pure la prima puntata dell'anno mi scordo tutto. Poi da adesso in poi ricomincio a scordare tutto. E quindi per problema. Esempio io dopo questo intro bellissimo, se ci fosse Gabri, ecco. Potrei contare sulla sua di prestanza parlare... nel dare i contatti. Esatto, eccolo, lo sento. Vogliamo parlare dei nostri contatti. Abbiamo una pagina Telegram. Non è una pagina, abbiamo potete scriverci Gabri, su Telegram, dove sei? Dov'è Gabri? Oppure aiuto. Potete aggiungerci su Instagram. Instagram. Seguire. Allora, aggiungerci era vecchio. Senti, ti ricordi, aggiungiscimi. Io non ho capito ancora una cosa, ma come si condividono le storie? Perché ieri me l'hai mandata, ma io non sono stato in grado, Viola, veramente, guarda. Ragazzi, vi devo istruire. Ci devi istruire, siamo sono le persone cose da sbagliate. Giovani. Ci manca dopo, la persona. Dopo faremo un briefing. Oh, briefing. Comunque, su Instagram è 100 celle, scrivendo 100 al numero e poi celle. Avengers a anche. Lettere. E invece su Telegram è Radio Forte. Ma vabbè, si tratta di sempre di mettere quel t.me/ ok, 100 celle. Vabbè, maestro, io sono rimediato, c'è cioè quello che posso fare faccio. Insomma. Niente, un giorno riusciremo anche a dare delle coordinate serie e comprensibili a coloro che ascoltano. Però io ho capito una cosa. Sì. Ho capito che adesso non devo dire www. Per andare su. Ma cercate semplicemente fortebrenzino.net e potete trovare le nostre puntate in streaming. Ma guarda, ti comunico che è un po' che c'è questa cosa che non si mette più il www. Però... Io non l'avevo ancora mai detto, cosa vuole? Però vabbè, sì, è giusto che ci si aggiorni, è giusto anche a un certo punto mettere una musichina che ci faccia prendere bene per questo inizio di puntata un po' così, oltre che in ritardo, confuso. E quindi che cosa ascoltiamo? Sempre tu, Silvano, che metti la musica. Guarda, io penso di aver portato un pezzo degli Scary Goldings, che penso. Non sono altro che se gli no, Scary Pockets, che sono un gruppo che rifà in chiave, diciamo, funk, tutti i classici della musica pop. Però in questo caso invece ho portato un pezzo originale, in cui collaborano con questo Larry Goldings, che è un pianista e un organista molto famoso, che tra l'altro ha suonato anche ad esempio con Pat Metheny, per dirne uno, quindi anche in ambito jazz. Però con loro si diverte e fa questo diciamo funk soul. E quindi su Radio Forte 100 Celle Avengers, Scary Goldings. We'll be right back. Centocelle Avengers. La trasmissione dove Silvano dove Iron Man in bocca in buffo che... di prepotenza. Comunque voi due non vi trovate mai bene, dico Daniele e Iron Man. No, è vero, però questa volta c'è stata zizzania, devo dire, qualcuno che ci vuole male a tutte e due. Cosa? Comunque di nuovo Iron Man, tranquillo, cioè quando c'è da attaccare poi te lo dico, non ti fomentare subito. Abbiamo a questo punto il dovere di introdurre il fil rouge di questa puntata del nuovo anno. Vi ricordate quando, sempre in diretta su Radio Forte, no, mi sa che non era in diretta, forse no, era, no, forse erano era, quelle post-prodotte. Forse era quasi l'ultima puntata che andò post-prodotta nello scorso anno, nella scorsa edizione. Parlavamo dei morti del 50, era una rubrica molto allegra che apriva l'anno e che nasceva dal nostro interesse per il diritto d'autore, che adesso se ci fosse il vero rappresentante titolare di questo interesse sarebbe più facile parlarne. C'è, ma rimasto ci sono malissimo. Io, ci sono io che comunque sono affascinato da quando Gabri, o la Gabri, che oggi non c'è, quindi la chiamo con l'articolo, parla di queste cose. Mi addormento veramente felice. In quanti minuti? In pochi minuti. Però non c'è lei, quindi comunque sarò io a ricordare a tutti quanti coloro che non analizzano queste questioni e non conoscono, insomma, l'ABC del diritto d'autore, che a 70 anni dalla morte di un autore il suo diciamo catalogo o repertorio o comunque insomma il suo creato diventa di pubblico dominio. Quella volta dissi patrimonio dell'umanità, che forse era troppo perché ero ignorante, subito Gabri vuol dire di pubblico dominio, va bene, la stessa cosa, però patrimonio dell'umanità era più figo, no? Stavolta poetico. Sarebbe fiera, vabbè, di te, un certo effetto, no? Diciamo, si consegna dopo 70 anni dalla tua morte il tuo patrimonio all'umanità, tutti ne possono fare ciò che vogliono senza pagare niente, e noi che siamo una radio scellerata appena nata, subito come Rapaci l'anno scorso eravamo lì a aspettare che i morti del 50 ci dessero i loro frutti. Ci fu Trilussa l'anno scorso, voglio dire, mica Fraccarso da Velletri, sì. Ci fu il grandissimo non mi ricordo chi, ma soprattutto quest'anno, scusate, questo mi aiuta a dire che quest'anno abbiamo parimenti degli artisti che lasciano il loro segno e che ovviamente hanno questo avvio di tracce un po' lento, ecco, mi sono permesso di portare un pochino avanti l'avvio della traccia di 16 minuti che stiamo per ascoltare, no scusate, 25 minuti. Tanto all'inizio non si sentiva, quindi. Questo è il compositore Schoenberg, che essendo comunque all'interno della comunità europea rientra sempre nella questione 70 anni, perché poi se ci fosse la Gabri avrebbe specificato che questa cosa di 70 anni vale solo per l'Italia e l'Europa, mentre in America già fanno tutto un altro ragionamento, ma non voglio spoilerarvi quello che sarà, speriamo, il contenuto dei cigni di Balaka. Gabri, ti aspettiamo. Però no, intanto vi vogliamo dire che questa musica l'abbiamo potuta mettere senza sborsare i soldi che normalmente diamo ad ogni autore di cui profaniamo l'opera, soprattutto a Paul McCartney. Questa nello specifico si chiama Werkenlacht di Schoenberg, appunto. Oddio, una puntata con scusate. I nomi difficili, oh, sì, infatti, iniziate a scusarci. Ragazzi, cioè, già stiamo io ho già dato dei soprannomi, comunque, ve lo voglio dire, cioè, io vado sempre su economizzo. Il nostro. È un mistero. Comunque è un nome di quelli che si sputa, quindi in questo periodo, cioè, già stiamo facendo la puntata mezzo con la mascherina, cioè, mezzo non è il caso che vi ripeta che è Werkenlacht di Nacht di Schoenberg, che vuol dire qualcosa di notte, non so, vabbè, lo cercheremo nella pausa musicale. Comunque non è il solo artista o comunque produttore di senso, chiamiamolo così, che noi abbiamo disturbato e fatto rigirare nella tomba quest'oggi, è solo il primo, quello che introduce appunto il tema morti del 51. Ok, io vedo una Virginia che, cioè, non vede l'ora, ma io non vi voglio, perché questa cosa del tema dei morti del 51 doveva essere un appendice, doveva essere un non nulla, e invece quando nel brainstorming è stato tirato fuori ha entusiasmato tutti, veramente, devo dire, si è creato una sinergia che, cioè, se ricordo l'anno scorso le ricerche di Alexa, sì, che ha trovato tutte minchiate che non avevano senso, poi l'ho dovuta cazziare, ma quest'anno tanti è diverso. Ricordi che potete ascoltare in podcast su Radio Forte .net, non è vero, fortemensino.net. Invece quest'anno c'è una ricerca che veramente siamo tanti, che il momento in cui si apprezza il fatto di essere tanti è quando si deve fare una ricerca. Posso dare un colore a quello che faremo? I colori vengono bene in radio. È un colore dato da un effetto che lei sa che io amo e che ho qui vicino. Ma questa è un prodigio di... È un prodigio della tecnica. No, di Dio era. Ma è rovinato. Non siamo ancora riusciti a farlo mai. Cosa? Dio. Niente. Un po' sì. Oh. Bene, quindi diciamo, noi ci siamo prodigati a fare una ricerca importante sui morti del 1951, da cui possiamo prendere appunto a mani basse, e inizierei con una lunga ma breve lista di nomi. Prego. Un attimo, c'è cioè un momento di assestamento e sospansa, esatto. Ma vuoi la musica più... No, no, no, va bene, questo va benissimo. Quando vuoi, eh. Sergei Aleksandrovich Kusevich... No, va bene. Io non l'ho data a nessuno, lo devo leggere io. Kusevich, contrabbassista russo. Ah. Un progenitore. Le Giannine. Giannina Ras e Giannina Arangi Lombardi. Le mie erano facili. Però so Giannine. E poi proseguiamo con un Luciano Neroni, bassista italiano. Basso. Ma sono tutti bassisti, ma capito? Ma il bassista non esisteva. No, ma era solo basso, pensavo era che era bassista. Non era un basso bassisti italiano. Del 51. Era la voce. Ah, scusate. La voce basso. Un basso italiano. Allora, uno basso, uno gran basso. Posso procedere? Puoi procedere. Io ho un compositore sloveno. Mirko Polic. E concludiamo la lista con un rappresentante del campo di cui ci occuperemo a breve in una delle nostre nuove rubriche future. Robert Broom, paleontologo sudafricano. Aspetta. Ma che ci famo? È che gli rubiamo al paleontologo. Io volevo introdurre... Vabbè, niente, spoiler, scusate. È finita come l'altra spoiler volta. Spoiler dentro la testa di Virginia. Perdonatemi, sì. Devo dire che mi aspettavo meglio, però... Vabbè, io ne ho messe poche. Vabbè, dai, dopo... Ci volevi mezz'ora di nuovo. D'altra parte Alexa sa fare le ricerche computerizzate, non posso chiedervi altrettanto. Vabbè, stai dicendo che è meglio un'intelligenza artificiale che noi. Vabbè, niente. No, non mi permetterei mai. Ecco. È morto il colore. Detto questo, a cosa ci traghetta tutto questo... Questa morte del 51. Ha un brano da diffondere per via radio? Sì, no, forse. Tipo il brano. Se poi facciamo tutta la trasmissione, tanto ho detto che dura 25 minuti, quindi un quarto di trasmissione ce lo portiamo a casa. Ce lo portiamo così. Poi, allora lascia. Un ottavo. No, quindi vado... lascio Schoenberg Verklangnacht. No. Quindi cosa ascoltiamo? Il brano che andremo ad ascoltare è un brano molto malinconico e molto bello dei Pearl Jam e si chiama Last Kiss. Su Radio Forte, 100 celle Avengers morti del 51. sempre in diretta su Radio Forte 100 Avengers in questo meraviglioso 8 gennaio del 2022. Ma tu ricordi quando riponevamo tutte le nostre speranze nel 2021? Ma voi ricordate quando c'erano pure Zero Calcare, tutti quanti che facevano battute su 2021, su 2021. Pensa un po' quanto è passato veloce il tempo quando ci si diverte, proprio un attimo. E quindi, ripeto, in questo 8 gennaio meraviglioso alle 17.23 prende corpo quella rubrica che qui a 100 Celle Avengers si occupa dei campioni del mondo. No, vabbè, no, dovete dire qualcosa. Cioè, io addirittura ho messo un sistema automatizzato oggi che mi consente di pescare la sigla senza doverla cercare. Però mi dovete dire voi, sigla. Ascolta Tommy con una candela accesa e vedrai davanti a te il tuo futuro. E pensavo che lo sciupata così. Beh, oggi questa rubrica è ostata direttamente dal nostro Silvano. Io non metto bocca se non per presentarlo. Silvano. Infatti è la prima volta che mi posso occupare di un pezzo che effettivamente mi rappresenta e di cui lei non sa nulla. Però io a questo punto vorrei sotto la canzone deputata, sono distratto, questo era sosti modi. Mannaggia. No, non volevo. È un po' infastidito. No, è che mi fa strano perché sto al mixer e parlo pure. Io non sono capace, mica sono maestro. Quindi via. Ho preso? Lei è stato bravissimo. Incredibile. Come sempre. Veramente ha sbagliato. Lo sapevo. Quindi... Però era bellissima. Adesso vabbè, lei mi ha già svelato tutto il trick, però no. Fine della rubrica Simply Sample, esatto. Bravissimi. È stata una cosa involontaria, cioè, adesso voi no, sentendo questa cosa, specie le persone un po' più grandi, no? Vi fa pensare a qualcosa questa cosa qui. Pensate che quest'uomo, poverino. Più grandi non dicevi a me. No, non dicevo a te, dicevo. Non ti stava fissando. Perché io so benissimo, ad esempio, che Virginia non ne sa niente di questa roba. Ma non perché sono più piccola. Perché è giovane, oltre al fatto di non seguire un genere. Non seguo. Praticamente questo signore è il signore che dà il titolo alla nostra rubrica, perché lui si chiama Sample. Stavo simpli. No, si chiama proprio Sample. E questo signor Sample, che è un grandissimo compositore jazzista, tra le varie canzoni ha scritto questa. E questa canzone ha questo giro di chitarra, ma poi sai che non vi dice niente? Ma no. Pensa che addirittura nel 2012 un ragazzo ha suonato con lui e gli ha fatto: oh, ma lo sai che io sta canzone qua l'ho conosciuta solo grazie a... La canzone esatto, alla canzone da cui viene. E cioè, quella che adesso devo mettere. Esatto, no? Quella che ancora potresti non mettere, ma puoi anche metterla, tanto dura tanto. Forse questo è il momento dell'esempio. No. Guarda, questo potrebbe essere l'effetto dell'esempio. Sentite questo, sentite che bella atmosfera, sentite questo bel giro e adesso sentite quest'altro. È chiaramente picciata. Ah. Esatto. A cosa vi fa pensare? Cioè, chi è? Lo sapete chi è? Ma chi non lo riconosce? Non riesci a dire il suo nome. Niente, non riuscite. Questo è Tupac Shakur. Incredibile. Questo è Tupac Shakur e questa canzone si chiama Dear Mama. Stranamente non ho messo una delle canzoni classiche del gangsta rap di Tupac Shakur, ma ho messo la canzone che lui ha dedicato alla mamma nel primo album fatto con una major. E niente, io volevo solo dire che praticamente tutti andavano da questo povero signor Sample a dirgli: oh, ma sai che io ti conosco solo perché tu hai fatto questo giro che è Dear Mama di Tupac. Mo, mettetemi qui a parlare della storia di Tupac, eccetera. Cioè, ma tanto la sanno tutti, voglio dire, cioè, non mi sembra. No, io so soltanto i punti salienti, anzi, il punto saliente. Allora, il punto saliente è che è proprio quello sbagliato, perché praticamente il punto saliente perché che non era l'hai provocato. È che tutti sanno è che c'era questa lotta fra East Coast e West Coast, in cui c'era questo mandante dell'East Coast, che tutti sanno che era Notorious B.I.G., che ha mandato a far ammazzare e sparato il povero Penso, io non la sapevo così approfondita, addirittura con i poteri forti già svelati. Esatto, invece in realtà era proprio Notorious B.I.G. Esatto, ma invece non era assolutamente invece così. Invece non è stato lui. No, no, Tupac aveva semplicemente menato la persona sbagliata insieme al suo produttore e quindi poi questa persona è andata lì e si è vendicata. Di solito è così quando meni comunque. Sì, si fa ma lui neanche voleva andarci, lui stava a un incontro di Tyson che è durato 2 minuti, voleva andare a casa dalla moglie, ma invece purtroppo... Vabbè, comunque anche io apparentemente, cioè, mi interesserei di questa cosa, ma in realtà volevo capire. Ma davvero si chiama Sample questo? Cioè, uno che viene esatto. di campione Joe si chiama Sample. Poi rimetto la musica, scusa. Esatto, si chiama proprio Sample. È solo per questo che io oggi ho fatto questa puntata in questo modo. Perché volevo mettere un pezzo di Tupac Shakur. E perché c'è... pensa un po', il Sample era preso da uno che si chiama Sample. Cioè, ma meglio di così, perché vogliamo. Incredibile, 100 celle Avengers quanto approfondisce. Bene, abbiamo avuto uno spin-off di Simply Sampled che è diventato Silly Sample. Esatto. Ti voglio bene, Silly. Grazie. E a questo punto possiamo sentire il brano, che effettivamente era molto bello, l'unico brano non gangsta di Tupac. And mama made miracles every Thanksgiving, but now the road got rough, you're alone, trying to raise 2 bad kids on your own, and there's no way I can pay you back, but my plan is to show you that I understand, you all appreciate it. And dear mama, please, no one above you, sweet lady, appreciate it. Don't you know we love you? Pour out some liquor and I reminisce, 'cause through the drama I can always depend on my mama. And when it seems that I'm hopeless, you say the words that can get me back in focus. When I was sick as a little kid, to keep me happy, there's no limit to the things you did. And all my childhood memories are full of all the sweet things you did for me. And even though I act crazy, I gotta thank the Lord that you made me. There are no words that can express how I feel. You never kept a secret, always stayed real. And I appreciate how you raised me and all the extra love that you gave me. I wish I could take the pain away. If you can make it through the night, there's a brighter day. Everything will be alright if you hold on. It's a struggle every day, gotta roll on. And there's no way I can pay you back, but my plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Don't you know we love you, sweet dear mama. Place no one above you, sweet. You all appreciate it. Dear mama, dear mama. Nuovo in diretta alle 17.31 di questo 8 gennaio 2022. Quelli che aspettano la Gabri, 100 celle, 100 celle Avengers. Ma vuole che le apra Iron Man, così faceva la voce diversa, era carino, era simpatico. Non lo so, non lo so. Poi non vorrei che svelassi così i nostri trucchi del mestiere. No, no, assolutamente no. Tutti pensano che Iron Man sia una persona a sé stante. E quindi bravo, e quindi noi manterremo questa credenza folcloristica. Sì. Ma nel frattempo qui le cose vanno avanti, il carrozzone di 100 celle Avengers non si ferma, con il suo circo, con i suoi trampolieri, con Virginia che oggi come altre volte è la detentrice del cartaceo, quell'elemento che mette pace quando una puntata si mette insieme all'ultimo, nessuno sa cosa accade, soprattutto io che parlo. Ancora è da mettere insieme in realtà. E lei sa tutto, ma soprattutto sa che c'è lei stessa adesso, sì. Vero? Sì. Vero? Su questo sono preparata, adesso tocca a me e tocca non solo a me ma ai miei 4 migliori amici. E infatti andiamo direttamente a mandare la sigla senza nemmeno presentare i più famosi di Gesù, l'ho detto. Ah! rifatevi le orecchie su certo c'è cioè le Avengers. Meno male che abbiamo abbassato un po' i volumi. Allora, cosa succede oggi? Oggi dobbiamo celebrare effettivamente i morti del 1951, ma non solo, perché è anche un grandissimo periodo di compleannoni in questa redazione. E quindi non soltanto i morti del 51 saranno le nostre personalità, diciamo, prese di mira, ma anche chi fa il compleanno in questi giorni. Quindi oggi celebriamo la figura di Mike McGear. Che voi direte, chi è che c'entra con i Beatles? Mike McGear è il strettamente collegato ai Beatles perché è il fratello di Paul McCartney. Disclaimer, nessuna associazione mafiosa è dietro Avengers. Non c'è Paul McCartney vero che ci punta le lupare dietro. Il fratello di Paul che gli diceva di comprare le cose. Esatto, esatto. ma perché ne parliamo? Perché Mike McGear è nato ieri, come me, e io sono molto contenta di aver trovato questa associazione. Quindi si poteva dire anche auguri Virgilio, possiamo no, dire. Perché era ieri, però sì, grazie. No, sì, sono una persona molto, molto ansiosa sui compleanni, quindi lo celebro quello degli altri. E quindi Mike McGear, chi è che c'entra? Mike McGear è noto come fotografo principalmente. Ma oggi parleremo invece della sua carriera musicale, che è stata anche molto lunga e io direi anche molto originale. Ho iniziato ad ascoltare oggi, lo ammetto, i brani di Mike McGear e a me mi piacciono, non so che dire. Ed è già rubrica. È già rubrica, sì, i parenti dei Beatles. E, insieme ai dinosauri, tutto l'albero genealogico, esattamente. Gli un pochino meno famosi di Gesù. Un giorno parleremo anche di moda, allora, della figlia di Paul. Sì, Stella, ma Stella. Certo, tutta la famiglia. E ripeto, non c'è Paul McCartney vero che ci punta le lupare addosso. No. E la carriera musicale di Mike McGear come parte? Allora, nel momento in cui i Beatles stavano iniziando a diventare famosi, quindi nel 1962 all'incirca, Mike McGear fa il parrucchiere. Ma non soltanto, perché si occupa anche di, diciamo, mettere su un gruppo, cito testualmente, un comedy poetry music group che si chiamano gli Scaffold, e in quegli anni avevano preso abbastanza piede, tanto da portarsi avanti, insomma, per tutto il decennio degli anni 60. È un gruppo geniale, e infatti il brano che ascolteremo alla fine di questa rubrica è proprio il loro, quindi non faccio nessun tipo di spoiler. È una di quelle cose che piacciono a me, è un po' ironico, un po' stupidino, un po' alla Paul McCartney, ovviamente, quindi insomma si sente che è suo fratello. E andando avanti si occupò della propria carriera solista e cambiò anche gruppo. Infatti nel 1973 si unì ai Grimes, un gruppo perfettamente al passo coi tempi, appunto erano gli anni 70, quindi un gruppo rock, un gruppo anche abbastanza psichedelico e con alcun tipo assoluto di influenza beatlesiana. Di questo abbiamo un esempio con il brano Plenty of Time. Il fratello di Parascandolo. Sì, come avrete potuto notare, non c'è assolutamente nessun tipo di influenza, appunto, beatlesiana. E appunto, senza alcun tipo di influenza dei Beatles, ci ritroviamo invece nel 1974, e quando finalmente McGear riesce a collaborare con suo fratello. I Beatles erano finiti e quindi lui è rimasto un po' fregato da questa cosa. Erano finiti nel 69, lui si ritrova nel 74 ad avere questo importante contratto e mette su questo album che si chiama proprio McGear, in collaborazione totale, e scritto e suonato insieme a Paul McCartney and the Wings. Finalmente quindi parliamo un po' di Paul McCartney, che non ne parliamo mai, è una personalità così importante, nessuno lo cita mai in questa trasmissione, non ma capisco. Con le Wings pure? Con i Wings, no, con le Wings. Io non ce la posso. Ah, la musa tecnica. Io ho visto il film. Io non ne so niente, ma delle Wings. Non è la mia. No. Vabbè, scusa. Allora, la prossima rubrica che volevo fare dopo quella dei dinosauri era sui mini pony, quindi cioè, le Wings sono passate già. Mio mini pony. Una risposta notevole comunque, di coro. Siamo prontissimi. Ma sembra erano quattro pure i miei mini pony comunque. Forse sì. Anzi, sei, erano sei quelli delle serie nuove, ma poi... Ah, vabbè. Non vabbè, l'ha allora no. Ma noi siamo old. Cambio di rubrica, un'altra sigla. Ok. No, e il brano di cui stiamo andando a parlare in questo momento, di Paul McCartney and the Wings, in collaborazione col fratello McGear, si chiama Leave It. Carino. Sì, molto. sì. Erano proprio belli. Ci piace. Erano proprio belli. Scusate se si sente poco il microfono, ma per vedere Viola dobbiamo sempre girarci, quindi... Lei incombe. Ci allontaniamo, esatto. E nel 1981 invece si prodigò in un tributo a Lady Diana Spencer per il suo imminente matrimonio con il principe Carlo e fece questo brano che si chiama Nolladidar. No, no, non so pronunciare le cose. Nolladidar. Comunque, che è uno dei suoi pezzi da solista e lo andiamo ad ascoltare. Nolladidar is Lady Di, no dizzy daddy ball. Nolladidar is Lady Di, just like the girl next door. Just like the girl next door. Adesso, appunto, avendo parlato abbondantemente, diciamo, nei limiti del possibile, sempre il fratello di Paul McCartney, avendo parlato abbondantemente della sua carriera, chiudiamo con il brano che mi è piaciuto in assoluto di più tra quelli che ho ascoltato, che è appunto un brano del 1962, quindi all'inizio della loro carriera, mentre faceva proprio il parrucchiere, penso a Liverpool, fece questo brano insieme agli Scuffles e il brano si chiama Thank You Very Much. Cultural heritage, national beverage, being fat, Union Jack, nursery rhymes, Sunday Times, a nap and bomb, everyone. Thank you very much. Thank you very, very, very, very, very, very, very, very much. It was simply spiffing and true. Now let me whisper, I love you. Thank you very much for the entry. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the entry iron. Thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record. Thank you very, very, very much. Thank you very much for our gracious team. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for our gracious team. Thank you. Io mi ricordo quattro ragazzi su Radio Forte e queste 100 celle Avengers. Di nuovo in diretta su Radio Forte, 100 celle Avengers. Questo merito per aver osato andare a fare pipì durante il brano dei Beatles. Non si è ancora, non era. Ma non segue sapevo. Niente. Ritorna al bagno. Uffa, torno al bagno. No, vabbè, volevo dire di nuovo in diretta su Radio Forte 100 Cell Avengers alle 17.42. Quasi sfila via quella prima ora di divertimento, ma ancora c'è tempo in questa prima ora di piangermi addosso, come ormai sono solito fare nella rubrica Traumi fonici, di cui abbiamo addirittura una sigla. Sei fregato. Che cazzo state dicendo? Andiamo! Sono il vostro fonico! Siamo nella valle, bello. Ci sono un sacco di fonici qua. E nella rubrica Traumi fonici quest'oggi andiamo a trattare un argomento che finalmente mi tocca veramente, e quindi non so neanche se sono pronto, ma lo dico sempre, però cioè, diciamo che le altre volte mi faccio un po' portatore anche di così battaglie di categoria, cose che riesco a trattare con più leggerezza. Qui ad oggi, quest'oggi parliamo di qualcosa che mi ha ferito veramente, come fu appunto la faccenda di Dave Lombardo. In camera mia appunto c'è il bersaglio per le freccette dove c'è Dave Lombardo e c'è quest'altra persona che però siccome sono tornato appunto di corsa adesso non so neanche più dove trovare diciamo dei riferimenti, posso introdurla così perché questo è un audio inedito anche per me fino a ieri, che mi ha anche un po' riportato diciamo felicità su questo argomento. Avevo paura di parlarne, invece dopo che ho sentito questo sto meglio. Oggi devo proprio ricordarmi di fare la spesa. Non ho più niente in casa. Allora, vediamo un po'. Stasera cosa faccio? Fettine panate. Dai, amore, ti prego, fai le fettine panate. Tu le fai da impazzire di bontà. Fettine panate. Ho sentito parlare di fettine panate. Dove sono? Mi piacciono. E va bene, non ho proprio altra scelta. Per questa sera fettine panate, d'accordo? Evviva! Ciao, Alicia. Che succede? Che c'è? Mi sono scordata le fettine panate. Trauma. Incredibile. Oggi ho pensato a tutto, tranne che alle fettine panate. Dopo hanno divorziato, È un trauma fettinico. Voi preferite mangiare oppure sapere che un amico è contento? Sapere che un amico è contento. Le fettine. Ma le fettine siete proprio bravi. Sì, sì, vi meritate una magia. Ma questa è una questione morale, ecco, sentito, le fettine. Ah, ma alla fine c'erano. Che bello! Era barbaro. Alla fine c'erano anche le fettine panate. Che nessuno chieda mai a me se preferisco aiutare un amico in difficoltà o mangiare. Sappiate, soprattutto le fettine panate. La verità è che non tutti potrebbero aver riconosciuto queste voci, soprattutto una voce. Quindi un riferimento musicale aiuterà. Ah, era Mila. Era Mila, no, non era Mila. Trauma fonico numero 2 è rappresentato da Cristina D'Avena. Molto bene, e quindi entriamo un po' nella questione. Noi erano un paio d'anni che aspettavamo questo momento, volevo solo dirlo. No, era soprattutto Iron Man che era un pochino sadico nei miei confronti, mi parlava di queste cose nelle prime puntate di 100 Cell Avengers. Io ho glissato, ma poi ieri ho capito che è il momento di togliersi anche questo peso. Ti sento triste comunque. Sento un pochino sì, un perché ripeto, in realtà io ci scherzo sopra, ma è una cosa che ancora mi brucia e mi ci addormento male, di girato. Che cosa successe? La nostra Cristina, dopo tutta una vita di successi discografici che noi conosciamo bene, ha vissuto quello che potrebbe essere anche per lei una reunion, se non fosse che sola, quindi si è riunita con se stessa e in età quindi più matura ha ricominciato a fare tournée, molti lo sapranno, anche con i Gem Boy da sola, prendendosi un po' in giro, facendo un remix delle sue note canzoni di cartoni animati, un remix molto dance, molto... Vabbè, insomma, mi capitò di essere fonico di palco designato all'ascolto della Cristina D'Avena durante l'evento concerto all'Orion, discoteca di Roma, più famosa come Energy al suo tempo, ma poi divenuta Orion, insomma, un discotecone di Roma abituato ai bassoni. E niente, quello che successe mi ferisce perché fondamentalmente cerco di di rivivermi ogni volta la situazione pensando, cioè immaginando di fare la cosa giusta, quello che avrebbe potuto non fare così. No, lo so, cioè, è quello che succede con serate così che ti brucia. Ma chiaramente il bonus, il jackpot di presa a male, uno lo conseguisce, lo consegue, lo guadagna, perché si tratta di Cristina D'Avena. Cioè, non so se voi capite che andare a dormire con l'immagine di una persona che tu hai associato nei primi 6 anni di vita, soprattutto, che sono quelli dove si imprinta tutto, hai associato al bene, con al lei che è arrabbiata con te, questo ti manda fuori. Questo è stato il vero trauma fonico. È stato il vero trauma fonico. Ma l'hai superato, maestro? L'hai superato? Non lo so, perché sono ancora qui a parlarne e a giustificarlo. Comunque, però l'hai consapevolizzato così. Purtroppo così andò. Cioè, poi brucia sia dal punto di vista appunto del jackpot, del bonus che Cristina D'Avena rappresenta, sia per il fatto che era una situazione semplice. Cioè, raga, per un fonico non riuscire a risolvere un base più voce, perché non è che Cristina c'avesse la band, c'era il suo DJ. Però è proprio andato tutto male fin dall'inizio. Cioè, noi avevamo lì l'Orion, che salutiamo. Ciao, saluti a Ciampino. Saluti. Il responsabile mi disse: ma monta sta console nuova che abbiamo comprato, mo da Pioneer, senza niente, senza i lettori, solo con le pennette. Tanto ormai è il futuro, la paura, fa una bella figura. Se non che il DJ di Cristina D'Avena, vecchia scuola, è arrivato con 200.000 CD, veri CD, compact CD. Disc. Ma io questa roba dove la metto? Ma come, cioè, a un minuto dallo show, questa era la situazione, io mi sono trovato già a gestire questa, ma questo è nulla. Poi dopo, appunto, si è aperto il concerto e poiché lì all'Orion, appunto, l'impianto è fatto per ballare, quindi è leggermente sovrastimato sulle basse, diciamo che è difficile poi acchittare dei concerti. Bene, bene. Quindi Cristina e io, che ci lavoravo più o meno per la prima volta, ci siamo trovati investiti da una metropolitana di suono, un qualcosa di indistinguibile, in cui io mi barcamenavo per farle sentire, ma fondamentalmente si doveva mettere un freno al suo DJ e al limite al fonico di sala, perché i sub che stavano sotto il nostro palco poi sparavano per il pubblico. Insomma, tecnicismi a parte, io non riuscivo proprio, ero impotente di fronte alla situazione. E però Cristina guardava a me, perché io stavo lì accanto a lei, quindi il suo occhio di odio lo porterò con me, non penso di superarlo, per rispondere alla domanda della professoressa Viola. Credo che andrà, insomma, me lo dovrò portare avanti come, ma soprattutto, cioè, lei finì il concerto a cappella, proprio disse: ok, togliete la base, ragazzi, qui non si può cantare, qui allora finiamo il concerto, e fece gli ultimi 3-4 pezzi, tanto le sapete le parole, e cantava lei col pubblico. Quindi, in realtà, forse eravate sulla stessa barca, però. Non lo so, diciamo che è l'umiliazione suprema per un fonico, che ti dicono pure: no, la base toglila, finisco il concerto a cappella. Purtroppo, appunto, ecco, se ne parlo facendo nome e cognome, proprio perché all'Orion penso proprio che non mi posso più far vedere. Quindi non c'è problema a parlarne, ecco, non è che diciamo, muta, abbiamo sentito. Quindi salutiamo di nuovo Cristina, salutiamo l'Orion. Vi ringrazio che questa cosa un po' sta funzionando. Questo lettino in cui si trasforma Centocelle Avengers alle 17:51. L'unica cosa è che sono smarrito sul cosa mettere a chiusura di questa roba. Di Mila, vedi? E Shiro? Io non te l'ho chiesto e pensavo che invece lo sapessi già, invece no. Puoi mettere un brano. Ti tocca qualsiasi. Mettere quel brano là. Quale? Quello sull'autocelebrazione. Quello che non hai scaricato. Oh mio Dio. No, no, siete sibillini. Siete sibillini, fate dei bigliettini. Esatto. Cosa piacerebbe che cioè, a Cristina D'Avena? Posso suggerire un brano di quelli che abbiamo cosa già? Cosa le farebbe piacere sentire a Cristina D'Avena? Facciamogli un omaggio, dai. Sì, se no a lei potrebbe piacere, io lo so per certo che gli ha... Araxis piacciono molto e piacciono tanto a Cristina D'Avena. Questo è colpa di qualcuno e non sappiamo chi. Su Radio Forte, Centocelle Avengers. stai ascoltando Radio Forte 100 Rangers. E di nuovo in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers salutiamo Davidino che ha prestato la voce allo spottino e già mi scordo che cosa succede in questo, pensavo fossi tu in questo sabato. Sì, ero io da piccolo che già sapevo di che questo sabato si fa quello che ha fatto lei a inizio gennaio, che ha fatto lei ieri? Eh? È venuto su, no? Giusto? Sono risorto? No, è salito. È nato il 24, non il 25. Ma lui era sceso a fine dicembre e poi è risalito a inizio gennaio. Quella è la Pasqua, è aprile. Ah, no, era in senso geografico, niente, non mi capisco. Vabbè, alludevi a... Il nord. Del nerd. Il sud del suono. E allora lanciamo la sigla. Vabbè, veramente l'ottimismo mi disarma. Mo, scusami, ci ho provato. È normale che cioè, io metto un teaser prima. Ma l'ottimismo è il profumo della vita. Il nord è creata la giusta atmosfera. Sigla. Il mio pinguino di ceramica nello studio guarda sempre verso il Radio Forte 100 Celle Avengers. C'è una rubrica adotta che si chiama Northern. Come l'ha chiamato? Northern. Grazie Northern. Su 100 Celle Avengers. Quella che cammini. Ma buongiorno, buongiorno. Permettetemi di fare una piccola marchetta e salutare due nuovi ascoltatori che ci seguono dalla ciociaria, che se non li saluto poi mi menano. Ciao Mick, ciao Tarim! Hanno i canali preferenziali, che è sta storia? Ciao, ciao. Devono scrivere su Telegram. È vero, io lo devo dire, scrivete su Telegram, cavolo. Però ciao ragazzi. In ogni caso continuate ad alzarci gli ascolti, mi raccomando. Certo. Ma veniamo a noi, miei piccoli nerd, che stavolta me l'hanno servita su un piatto d'argento, o uno specchietto magico, visto l'argomento. Cristina D'Avena, si diceva. E quindi, ragazzi, uno dei più grandi capolavori della televisione italiana, Love Militia, non Kiss Militia, Love Militia, serie del 1986 prodotta da Mediaset per soddisfare gli spettatori del quasi omonimo cartone Kiss Militia. Pensi sia il momento giusto per 90 minuti di applausi a questa sì, cosa? Sì, sicuramente di... sì. Mamma mia, mamma ma soprattutto mia. La devo mandare? Ah no, no, ancora, aspettiamo ancora. Un po'. Ma il sottofondo che fine ha fatto? Quello intero. Ah, certo, quello doveva partire già prima. Vedi che non ci sto dentro. La regia, la regia. È il trauma fonico che... Ora sì. Ora sì. Piangere. Diciamo, questa serie è stata fatta per soddisfare gli spettatori del cartone per un finale andato malissimo. Perché il finale di quel cartone ai tempi ci lasciò a bocca asciutta. Dopo tutto quel casino tra Mirko e Licia, Mirko che fa... Parte per l'America per realizzare i suoi sogni da musicista. Non vedete. E lì ci resta sola. E noi, lì, ragazzini, F4, basiti a chiederci: ma perché non resta con Licia ad aiutarla come al solito a pulire i broccoli? E quindi Mediaset decise di continuare il cartone con un risultato veramente, veramente, ma veramente trash. Love Militia ha il punto a favore di essere una serie, oserei dire, rilassante. Regà, non succede niente. Niente. In 34 episodi, niente. Ma Rabbio si arrabbia perché non gli piace Mirko. Mirko fa le prove con la band. Licia passa il tempo a decidere cosa fare per cena, come nella famosissima scena delle fettine panate. Fettine panate. Le mitiche. Io volevo proprio le fettine panate. Le pettine panate. Fettine panate. Fettine panate. Fettine panate. Fettine panate. Fettine panate. Quella scena lì. Questo deve essere il sottofondo, però adesso. Il sottofondo. Ci teniamo fettine non panate. Non ce la facevo, era bellissima. Sono 10 minuti di fettine panate. Seguitelo su YouTube. Le fettine panate, che tra l'altro sono un piatto tipicamente del Giappone, a sud, più o meno vicino alla Dispoli. Ma Rabbio faceva quelle nel suo ristorante. Sì, a parte le che faceva le polpette. Faceva le polpette. Le polpette. Mamma mia, come sono ferrata su Kiss Militia. E praticamente si rega, stava in fissa con una tizia nella serie, e lui, la fissa sua non era andare con questa tizia, l'amore e quant'altro, no, era che questa si mangiasse le polpette. polpette. C'era una puntata che finiva con questa che stava per addentrare la polpetta, la chiamavano, doveva andare via e Marrabbio piangeva a fine puntata perché lei non aveva mangiato la polpetta. Certi cuore uomini morbido. ci tengono. Ma ste fettine panate dovevo tenere sotto davvero. Mi sono permesso, ci è messa bene la fame. Alle a fasi, va al volo. Parlavo di questa cosa qui perché questo rimarca anche il casino operato durante la serie tra il Giappone e l'Italia, perché la serie è ambientata in Italia con delle licenze poetiche giapponesi veramente terrificanti. Ad esempio, se ci fate caso, il locale di Marrabbio è una tipica taverna giapponese, di quelle che fanno le okonomiyaki, delle sorte di frittatone che fanno in Giappone, con le piastre sul bancone, le piastre roventi su cui si cucinano le frittatone. Ma siccome i registi italiani non sapevano accidenti degli usi e costumi giapponesi, le praticamente nella serie vengono usate come tovagliette. E sulle piastre, sacrilegio, come tovagliette nere. Certo. E sulle piastre ci vengono messe sale, pepe e tovagliolini invece delle frittatone. E poi ragazzi, i nomi. C'è Andrea, Giuliano, che incontrano Licia per caso. C'è Mirko, Marrabbio e Satomi. Satomi, sì. Satomi, l'unico scemo con un nome giapponese. Però lì ti viene da pensare, magari i registi italiani avranno pensato che fosse, non lo so, un cognome della Valpadana. Comunque, signor Satomi. Signor Satomi. Il Guido Satomi. No, terrificante. Ma passiamo alla musica della serie. Ibi Hive. Wow, wow, wow, wow, wow. Ecco, questo era il momento dei 90 minuti di applausi. Giuro. Giusto. Chi di voi non si ricorda Ibi Hive? Dai, ammettetelo che lo sapete tutte a memoria le canzoni, se avete visto la serie. Anche perché non avete idea di cosa può fare l'uomo quando gli serve minutaggio. Ad esempio, scena in cui Ibi Hive fanno le prove. Tutta intera, con il pezzo passato tutto intero. Mirko poi torna a casa, tira fuori una cassettina e fa: volete sentire le prove? E boom, di nuovo lo stesso pezzo da capo, tutto intero. Sembra casa nostra. Sì. altro che i Tepor. Casa Virgiani. Nella serie animata le loro canzoni erano derivate dalle originali giapponesi con i testi riscritti da Alessandra Valeri Manera, mentre in Love Milicia vennero completamente composte da capo dai maestri Giordano Bruno Martelli e Ninni Carucci con la voce di Enzo Draghi, nonostante Pasquale Finicelli, cioè Mirko, sapesse effettivamente cantare. La colonna sonora, nonostante tutto, vendette 400.000 copie. E il primo album con la colonna sonora italiana del cartone animato divenne disco di platino nell'86. Capolavoro. È tanta roba. Capolavoro. Eh? Ma Giordano Bruno Martelli, hai detto? Sì. Proprio lui. Ci ha messo insieme. È un nome d'arte, ti prego. No, si chiamava così. Poi non so se ha qualcosa che se magari. Messo è... insieme un filosofo che saranno famosi. Sì, è quello di Campo dei Fiori. Bruciato vivo. Esatto. Però per quest'album famosi che ha fatto, gli hanno fatto pure una statua, mi pare, no? Sempre a Campo dei sempre Fiori. Sempre a Campo dei Fiori. Lui, ah, accanto... Non era lui. Scusate. Ma l'hanno anche bruciato vivo per via della... Ah, ups. Non sapevo bene la storia. No, non lo so. Cultura, Centocelle Avengers. Sì, grande cultura. Vi lascerò quindi con un pezzo dei Beehive. Maestro, vada. Freeway. Beehive. Strada, io e te, così è solo il vento, io con te, la pioggia, il vento, il sole, io e te, così io e te, verdi prati, poi chissà un bel mare blu. Solo il vento, io con te, la pioggia, il vento, il sole, io e te, così io e te, verdi prati, poi ti samba il mare blu. Yesterday, yesterday, yeah. notti e poi ci son bel mare blu. Yesterday, yesterday. Non è un caso alle 18.07 su Radio Forte 100 Celle Avengers se io ho messo questo stacchetto, questa voce angelica, questa c'è? Voce cucugiangi, sì. Chi è che è arrivato come le vere dive? Io non so se mi avete attaccato il microfono, mi sentite? Madonna, così, certo, sì, sì, sentiamo. Così forte e chiaro. Ma felice e contenta di essere qui con voi, amici e amiche. Mi siete mancati per questa oretta. Ero in giro, purtroppo ho avuto un piccolo imprevisto, ma eccomi qui. Vi ho ascoltati, ho sentito che avete anche anticipato un paio di cosette precise, più o meno. Adesso vediamo, magari no. Il tiro. Stiamo aspettando. Brave. No, ora mi siete piaciuti tanto. Ora balliamo insieme. Wow! Ma ancora non è il momento. In realtà era soltanto un saluto che facevamo a Gabri, che come sentite abbiamo applicato un plugin particolare di equalizzazione attufato sulla sua voce perché era troppo squillante. E quindi no, vabbè, niente, questa puntata un po' mascherata, un po' no, va avanti, ma con la nostra Virgi. Ciao a tutti, stiamo per introdurre la rubrica Video Dance on the Radio con diciamo un argomento che per me è fondamentale e forse per una rubrica che parla di danza è l'argomento degli argomenti, quindi oggi preparatevi per un bel impastone di informazioni che vi arriveranno perché parleremo di danza classica. Sigla. Battement dégagé. Bravo. Ma Virgi, che hai? Ti vedo giù. Ma come? Io avevo pronte le coreografie, i costumi, trucco, parrucco. E chi le vede mo ste cose? Ah. Senti io. Cos'è? Il musical senza la danza. Capito? Ok, Virgi. Che paura. Cioè, io mi ricordo perfettamente quando hai fatto questa cosa. Ma era tipo 2 settimane fa. 3. No, il il tip tap, sì, certo. Che mi hai chiuso fuori dalla stanza e mi hai detto adesso io devo stare qui da sola. Mi sta rovinando tutta la poesia, scusate. Di questo. Vabbè, veramente. Cioè, allora, oggi sarà una puntata emotivamente molto importante per me perché questo argomento, diciamo, mi ha riguardato per almeno il 90% della mia vita. Stiamo per parlare di un'altra morte eccellente nel 1951, ovvero Agrippina Vaganova. Agrippina Vaganova, che è la personalità in assoluto più importante, non solo a mio parere, della danza classica e il mio modello in assoluto professionale più, diciamo, più ambito. E appunto, Agrippina Vaganova, iniziamo subito dalla fine, muore muore a Leningrado il 5 novembre 1951. E quindi siamo in tema, se non sbaglio. Traumi danzici. Traumi, no, non è un trauma, è un'apertura di cuore. Non so come spiegarlo. Coincidenze. Per andare a fare questa puntata sono andata a recuperare il mio manualone personale che avevo scritto su tutto ciò che riguarda la danza classica in mia conoscenza, di mia conoscenza, e quindi ecco una parte di quello che ho fatto per i miei nuovi allievi. Allora, Agrippina Vaganova è la fondatrice, quindi è un nome molto importante perché è la fondatrice del metodo di danza classica più completo e più usato in tutto il mondo. È un metodo che è stato trasportato appunto in tutto il mondo, tanto da aver influenzato le principali compagnie sia statunitensi che la scuola cubana tutta, e che sono appunto altre due eccellenze nella danza classica. Quello che stiamo ascoltando in questo momento è il Pas de Six della Bella Addormentata. L'avevo riconosciuto. Bravo, esattamente. Quello dove c'hanno tutti i tutù colorati, c'è presente, no? Esatto. Ecco. E, diciamo, in questo Grand Pas, cioè una parte di balletto in cui ci sono moltissimi personaggi che fanno delle variazioni anche singole, debuttò Agrippina Vaganova da molto piccola. E lei faceva parte della scuola imperiale di San Pietroburgo, e questa scuola imperiale era la scuola che si rifaceva al teatro Kirov di San Pietroburgo, uno dei due famosissimi teatri che sono il Bolshoi e il Kirov, uno di Mosca, uno di San Pietroburgo. Lei uno stava famoso, uno no. Buh! Mamma mia, e i Beatles non vanno bene, e la Vaganova va bene, e i Bassin vanno bene. Ma io sono il consumatore medio, conosco il Bolshoi per nominato, e quell'altro. Quell'altro che manco mi ricordo. Quell'altro più famoso, più importante, Kirchhoff. Lo sai perché conosci il Bolshoi? Perché è il teatro pop dove ci andavano le star, capito? Era qui che te volevo, brava. Il teatro pop russo. No, quindi lei faceva parte della scuola imperiale, che era la scuola ufficiale del teatro Kirov a San Pietroburgo. Scuola appunto imperiale, e quindi accademia nazionale della Russia tutta. E nel 1915, dopo essersi diplomata, lei fa in tempo a diventare prima ballerina a un solo anno dalla chiusura della sua carriera per raggiunti limiti di età, e appunto diventò prima ballerina del Teatro Mariinskij, che sarebbe il Kirov di San Pietroburgo, sto dicendo troppi nomi, e finita la sua carriera inizia a insegnare, e diciamo che qui è un nuovo inizio per la sua carriera, perché è una personalità talmente importante che portò tantissimi cambiamenti nel metodo dello studio della danza classica, perché inserì una cosa fondamentale, che era la consapevolezza del proprio corpo. Tutti i suoi ballerini, a partire dai corsi inferiori che lei aveva preso nei primi anni, diventavano sempre più consapevoli appunto del proprio corpo, ma dal mignolo del piede a come iniziare a utilizzare la testa tramite i movimenti dei muscoli del collo. Quindi è stata proprio una grandissima innovazione, diciamo, calcoliamo appunto che erano i primi anni del 1900, e quindi l'influenza si è sentita tantissimo in tutto il mondo e in tutti i metodi che da lì poi sono nati. E iniziò a insegnare ai corsi superiori, e dopo pochissimi anni venne eletta direttrice artistica del teatro Kirov tutto. Dirige corsi di formazione per gli insegnanti, e a 6 anni dalla sua morte quello che è successo è che l'Accademia Imperiale, quindi la Scuola Imperiale Russa, ha preso direttamente il suo nome ed è diventata l'Accademia Vaganova. E l'Accademia Vaganova appunto è l'eccellenza di tutti i metodi che noi abbiamo trovato nella danza classica da sempre, e appunto rappresenta un sogno per tutte le ballerine che iniziano a studiare la danza classica, e rappresenta un punto di partenza dell'eccellenza. Parliamo di punto di partenza, arriviamo a un punto di arrivo che è un pochino più basso, perché noi abbiamo messo come sottofondo della musica classica per parlare della danza classica. No. Beh, sì. Non mi dire che vai a parlare dove... Vabbè, vai. No, non ci sono i Beatles. No. Incredibile, non ci sono i Beatles. E quindi è basso. Cioè, se non ci sono i Beatles, no. Sono quello che sto per no, mettere. No, vabbè, e allora faccio subito lo spoiler. No, andiamo in un punto molto basso dei video musicali, perché ricordiamolo che Video Dance on the Radio è audio e video da ascoltare privatamente nella vostra stanzetta. Vi consiglio, come punto più basso dei video ballati di sempre, il brano Dancing in the Street, che sarebbe il famoso brano di Martha and the Vandellas, che però è stato coverizzato e quindi rifatto da David Bowie, il cui compleanno è oggi. Il duca bianco. Auguri, David. Augurissimi. E purtroppo, al posto dei Beatles mi tocca mettere Mick Jagger. Questo duo fantastico, andatevi a godere lo spettacolo ballato che hanno fatto, perché è veramente un capolavoro. Quindi la Vaganova in questo caso non ha avuto alcun tipo di effetto positivo su questi due, ma noi andiamo comunque ad ascoltarlo per capire da dove si parte con tanta tanta passione. Però posso... No. Sì, sì, sì. Mi hai fatto prego, chiudere... Prego. No, no, prego, ho finito, stavo per dire brano, maestro. Brano. Su Radio Forte 100 c'è la Avengers 18 il 18 oggi Silvano è posseduto, vuole svelare i trucchi del mestiere ma non ci riuscirà, nessuno ha capito nulla e quindi io vado avanti come fanno, ecco, come fanno i veri professionisti, senza sapere cosa succede. Però quello che volevo dire prima, rovinando nuovamente il lancio di Virginia, perché è lo sport ormai che ho fatica, che ho praticato di più quest'anno. E volevo soltanto dire che Virgi, comunque tutto il metodo della Vaganova, cioè adesso tutto lo puoi rispingere, perché appunto il fine di questo festeggiare i 70 anni, ritorniamo sul pezzo, era appunto festeggiare il fatto che gli possiamo prendere i contenuti senza dovergli dare niente. Ma è per questo che ho studiato quel metodo, per poterlo fare. Io lo so che tu comunque ci tieni a mandargli la sua 50 euro ogni mese alla Vaganova, ai parenti, ai parenti. Tanto pure David Bowie, no? Che chi l'ha spinti i diritti? I parenti. Quindi i diritti rimangono. Detto ciò, io mi sono perso ancora di più di prima. Vedi a di ste cose inutili, so, proprio. So. Cioè, credo che sia il momento della cultura. Ditemi se dico bene. Era già il momento della cultura. Ok, sento un schiarendo la voce. Si sta schiarendo la voce dalle retrovie. Io non la vedo, ma la sento. Io sento non l'avevo dentro, aperta, però va bene. Quindi nel panico cerco la sigla senza trovarla. Ma questo è bello del giorno. Siamo pronti. Lanciati. Lanciati col paracadute, Viola. Sigla. Lasciatemi leggere. Leggere. Ho voglia di sentire questa poesia. E buonasera a tutti, bentrovati amici, la vostra maestra Viola che vi parla oggi di come filosofia e musica possono, ecco, si rincorrono, e per riprendere anche il fil rouge della puntata dei morti del 51 parleremo, e lo dico solo, lo nominerò solo questa volta, parleremo del grande filosofo Ludwig Wittgenstein. L'ho detto bene? Wittgenstein. Devo dire proprio Wittgenstein. Grazie della domanda. Sì, l'hai detto bene. Ok, era peggio di Springsteen. È un'altra persona comunque, sì, rispetto a quella di cui voi parlate. Vabbè, andate a vedere la foto di oggi del podcast che sarà del della nostra puntata e scoprirete chi è. Un bel pezzo di ci è piaciuto a tutte, ci è piaciuto a tutti, sì. Pezzi Gotto Paciarotto. Comunque, morto, anch'io inizio dalla fine, morto il 29 aprile del 1951. E allora, questo filosofo è il filosofo dei poeti e dei compositori, dei drammaturghi e dei romanzieri. Nel secolo scorso furono tante, diciamo, le presenze intellettuali che si occuparono della ricerca estetica, però numerose furono le sue osservazioni sulla musica. Lui coltivava un amore per i classici e i, diciamo, i romantici, come Schubert, Beethoven, Schumann, Mozart, e viveva in una famiglia che coltivava rapporti con artisti e musicisti. In casa, infatti, Wid, ogni componente, diciamo, era dotato di sensibilità musicale, e Ludwig suonava il clarinetto e intonava brani classici di opere vocali o di musica da camera, ma a dispetto dell'avanguardia musicale del tempo, il suo gusto musicale però rimase sempre conservatore, legato, diciamo, al repertorio classico e romantico, che sarà poi anche la componente denotativa del suo Tractatus Logico-Philosophicus. Il Tractatus è un testo breve che ha suscitato non poche lamentele all'epoca, perché considerato, diciamo, troppo criptico, e infatti lo stesso autore ne era pienamente consapevole, e diciamo la guida della sua opera infatti è la logica. Per il filosofo il nostro linguaggio è composto da proposizioni che raffigurano il mondo. Queste proposizioni sono i nostri pensieri. Una volta che essi sono stati, diciamo, resi percepibili, si trasformano in immagini logiche. Il mondo quindi è la totalità di questi fatti. In questo modo la realtà è dotata nel suo insieme di una forma, appunto, logica. Tutto ha un ordine. Lo stesso accade per il mondo musicale, anche nel comprendere, diciamo, ad esempio, una frase musicale. Possiamo dire che è comprendere un linguaggio. Il linguaggio, che appartenga alla sfera verbale o al campo musicale, è legato con le circostanze della nostra vita e con la cultura del gioco linguistico. E quando ci troviamo di fronte ad un tema musicale che, tra virgolette, ci dice qualcosa, non dobbiamo spiegarci il perché. Non fanno altro, diciamo, che esprimersi, rendendo chiara la percezione del loro significato. E diciamo, adesso, prima di lasciare Ludwig, riprenderò alcune sue, diciamo, sue frasi. Oggigiorno la gente è convinta che gli uomini di scienza siano lì per istruirla e i poeti e i musicisti per rallegrarla. Che questi ultimi abbiano solo qualcosa da insegnare non viene loro neanche in mente. Ma i poeti e i musicisti di cui parla Ludwig non sono gli offuscatori della cultura, bensì coloro i quali svolgono un lavoro pedagogico di avvicinamento del pubblico alla sua comprensione e al suo apprezzamento, in assoluta fedeltà a loro stessi. E ancora, la musica del passato corrisponde sempre a determinate massime del bene e del giusto della stessa epoca. Così in Brahms riconosciamo i principi di Keller, e perciò la buona musica composta oggi o di recente, che quindi è moderna, deve sembrare assurda, perché se corrisponde a qualcuna delle massime enunciate oggi, deve essere lerciume. Pressoché nessuno oggi ha abbastanza intelligenza da formulare ciò che è giusto, e tutte le formule, le massime che sono enunciate, sono assurdità. La verità sembrerebbe a tutti affatto paradossale e il compositore che la sente dentro di sé, nel suo sentimento, deve essere in contrasto con tutto ciò che viene ora espresso e quindi deve apparire assurdo, stupido, secondo le misure contemporanee, ma non assurdo in modo attraente, perché questo è ciò che in fondo corrisponde alla concezione odierna, ma insignificante. E quindi salutiamo il grande Ludwig. Ma io ho una domanda. E sì. Ma parlava della trap? Cioè, nel senso, se ci può darsi oggi, che ci ha visto lungo. Assurdo. Però forse la odiava, chissà. Comunque, diciamo, per omaggiare, per quindi omaggiare l'omaggio che già Ludwig ci ha fatto, diciamo, per intrecciare ancora di più la trama della musica, della filosofia, della poesia, io parlerò di Gaber, che nel 1984, diciamo, ritorna sulla scena con Io se fossi Gaber. E il tema di questo disco, diciamo, è la massificazione. Lo spettacolo debutta il 18 ottobre del 1984 a Torino. Tra le novità c'è il ritorno del gruppo che suona dal vivo alle spalle del cantattore. Gaber dichiara che Se io fossi Gaber nasce dalla polemica sul misterioso termine massa, su quelli che hanno ceduto alla logica del mercato, alla caduta di resistenza anche da parte degli ultimi che facevano il tifo per il gusto. Pensiamo oggi a tutti i disastri non solo economici ma anche sociali che ha prodotto questa scelta del mercato ad ogni costo, fatta anche da forze politiche cosiddette di sinistra. E quindi io, amici, vi saluto con un pezzo di questo, appunto, album di Io se fossi Gaber, che ha proprio intitolato Wittgenstein. Grazie. Wittgenstein. Prego, scusa, prego. Viola, non ho capito. È stato un piacere pazzo, ragazzi. Lo puoi ripetere, Viola? Come aspetta, Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein, ragazzi, io non lo so parlare l'austriaco. Abbiate pietà di me, vi voglio bene, un bacio. Eh sì, effettivamente dobbiamo dire, va detto, che negli altri paesi funziona tutto meglio che qui da noi, eh? Ci vuole anche poco. È perché gli altri sono più seri, ecco, si impegnano, fanno sacrifici per migliorare, eh? Perché loro credono nell'organizzazione, nelle responsabilità collettive. Per dire, i francesi credono alla Francia, gli americani credono all'America. Ci credo, ecco. Basta andare all'estero, si respira subito un'altra aria. Anche in Svizzera, per dire. Eppure mi hanno raccontato un aneddoto curioso, vero, pare, che riguarda il famoso Wittgenstein, eh? Grande filosofo, grande uomo di cultura, tuttologo, insomma, da quanto. Ecco, questo Wittgenstein pare che tornasse in treno con il suo assistente. Si pare che tornasse a casa dopo aver terminato il suo ultimo lavoro, un'opera decisiva, il Tractatus, che faceva il punto su tutta la filosofia, faceva il punto, proprio il punto. Anni di studi, anni di ricerche, anni di saggi, fine del lavoro e meritato riposo. Niente scompartimento, grande silenzio. A un certo punto pare che il suo assistente abbia chiesto: mi scusi, professore, come spiega lei il gesto che fanno gli italiani? Wittgenstein pensa un attimo, poi sbianca in viso. Porca miseria, devo rifare tutto da capo. Così evidentemente c'era qualcosa che non gli tornava. Non riusciva a capire l'atteggiamento e nemmeno l'allegria degli italiani. Proprio loro, così incapaci di organizzarsi, incapaci di far funzionare la vita, incapaci persino di farsi un governo. Ma Wittgenstein era uno scienziato. Forse avrebbe dovuto andare dall'altra sponda dell'intelligenza per afferrare il mistero dell'incapacità consapevole e sublimata. Ogni volta una grande emozione. Ma come fa? Ascolto 100 Celle Avengers su Radio Forte. Radio Forte è buona qui, è buona qui. Radio Forte, più del piacere della radio. Di nuovo in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, come ricordava il nostro amico Giuseppe, che salutiamo, nell'ultima mezz'ora di questa sprizzante vitalità esilarante trasmissione. Noi andiamo a recuperare il nostro elemento forte, Gabri, che è arrivata in ritardo ma è carica come Ben trovati. Ha detto la Gabri. Sì, ho sentito, era un ascolto. No, non è vero. E quindi ti autolanci? Mi autolancio, ma lancio subito la sigla. Ma non lo senti che è uguale ai cigni dei Baragà? E allora, ecco, tornati in voce a questa nuova puntata dei Cigni di Balacà, che appunto ha rischiato di non andare in onda, ma eccoci qui. E dato che il tempo stringe, io entro nel vivo del tema che stiamo trattando oggi, i morti del 51, quindi l'entrata in pubblico dominio delle opere di tutti gli autori morti appunto in questa data, nel 1951. Salto tutto il pippone che più o meno ho sentito quando vi ascoltavo da fuori. Avete già sintetizzato molto bene qual è la di Vero Suanone, qual è la regola. Grazie. Che vige in questo caso. Abbiamo capito che in Italia, come nella maggior parte dei paesi dell'Unione Europea, ma anche in Africa, in Asia, in Oceania e anche nella maggior parte dei paesi dell'America Latina e in Canada, attenzione, i diritti patrimoniali d'autore scadono dopo 70 anni dalla morte dell'autore, quindi un'opera è protetta per questo tempo, in una maniera limitata nel tempo. Per quanto riguarda i diritti patrimoniali, i diritti morali, cosiddetti morali, quindi la paternità, l'integrità, eccetera, invece sono diritti imprescrittibili, e significa che hanno una durata illimitata nel tempo, non scadono mai. E così abbiamo sentito del filosofo di Ludwig Wittgenstein. Come è andata? Ho detto bene? Gattina. Che sausato. Ecco che ci ha raccontato la professoressa Viola. E di questo progetto che ho trovato, lanciato da Wikimedia, proprio per favorire, che è nato proprio con questo scopo. All'incirca 2 anni fa hanno studiato fino a gennaio del 2022, quindi fino ad ora proprio, e si sono... un mucchio di volontari si è riunito proprio allo scopo di favorire, ecco, di raccogliere e divulgare, favorire la divulgazione online delle opere di questo illustre filosofo, che è morto appunto 70 anni fa. E, in primis proprio attraverso la traduzione dei suoi scritti in altre lingue. Il pubblico dominio infatti vuol dire proprio questo, cioè che a partire da come nel caso che stiamo di cui stiamo parlando, delle opere di Ludwig Wittgenstein, ma anche di altri, a partire da quest'anno le sue opere potranno essere riprodotte, stampate, tradotte, rese anche audiolibro, digitalizzate su Amazon, riprodotte a teatro, al cinema, e addirittura appunto modificate a proprio piacimento, quindi rielaborate da chiunque, e senza naturalmente rischiare di incorrere in una violazione dei diritti d'autore, proprio perché l'opera non è più protetta. Ma in questa puntata di Cigni voglio andare oltre i prodotti nostrani, diciamo, andiamo anche oltre quindi la legge italiana, oltre il caciocavallo e il panettone, e voltiamo quindi lo sguardo a quello che succede negli States. Perché se in Italia vige la regola che abbiamo visto, in America la legge prevede che la scadenza del diritto di autore si abbia dopo ben 95 anni dall'anno di pubblicazione dell'opera. Aspetta, non mi anticipare, non mi spoilerare. Non si guarda quindi tanto all'autore e alla sua vita in America, ma si guarda all'opera, e in particolare all'anno in cui l'opera è stata resa nota al pubblico per la prima volta. E la piccola chicca, ora forse mi puoi entrare con la musichetta che stavi lanciando, è che questa è una piccola curiosità, ma interessante, che fino al 1998 la scadenza per il copyright negli USA era di 75 anni, non di 95. sono stati quindi prorogati, questo termine è stato prorogato di altri 20 anni, con la legge nota come il Mickey Mouse Protection Act. Questo perché questa legge è stata spinta in parte proprio dalla lobby Disney per disporre dei diritti d'autore sul primo cartone animato di Topolino, Vaporetto Fichetto. Il Vaporetto Fichetto, Steamboat Willie, che sicuramente tutti ricordate, con Topolino al timone della nave che fischietta. Ecco. Il che significa quindi che fino al 2024, grazie a questo intervento della lobby Disney, i diritti su il primo cartone di Mickey Mouse saranno prorogati fino al 2024. Ovviamente si cede, cioè si stanno già preparando tutti quanti, perché siamo nel 2022, quindi fra 2 anni potrebbe, non lo so, succedere un patatrac, ecco. Chiaramente per il la Disney mille proroghe. Potrebbe essere, ecco, una grande debacle. Vedremo come andrà. E, quindi per le opere abbiamo detto quindi che ad oggi i diritti quindi sono passati da durare 75 anni a 95 anni a partire dalla pubblicazione. Un'altra curiosità è che in Cina e in Nuova Zelanda, ad esempio, il copyright ha un termine ancora diverso e si estende infatti per i 50 anni dalla morte dell'autore. Quindi tornano a far riferimento alla vita dell'autore, alla morte dell'autore, ma dura solo 50 anni, come era tra l'altro prima in Italia. Sono tantissimi quindi i titoli pubblicati nel 1926 che a partire da gennaio del 2022, quindi dopo questi 95 anni, entreranno in pubblico dominio e potremo dunque vedere di nuovo pubblicati, ristampati con nuove copertine o in nuove traduzioni in Italia e all'estero. Fra questi ho voluto inserire, mi piace citare anche Il sole sorge di Ernest Hemingway. E Viola, se te l'avessi detto prima, forse avremmo potuto inserire anche qualcosa di Hemingway, ma gatti. Magari ce lo riserviamo per la prossima volta. E Il castello di Franz Kafka e anche l'opera teatrale Un uomo e un uomo di Bertolt Brecht. Quindi questi sono alcuni titoli, ma la mia diciamo, attenzione si è concentrata soprattutto sul racconto che ha come protagonista quel docile e goloso orsacchiotto di pezza che tutti conosciamo, che è Winnie the Pooh. Il personaggio inventato dallo scrittore Alexander Milne e da cui appunto l'omonimo racconto per ragazzi pubblicato appunto per la prima volta nel 1926. Ora si è stimato che Winnie the Pooh si colloca, pensate, al terzo posto fra i franchise mediatici con il maggior incasso di tutti i tempi, dietro solo ai Pokémon e a Hello Kitty, e alla pari con Topolino. Quindi se la giocano. E finora ha incassato un totale di 80,3 miliardi di dollari in tutto il mondo. E ora questa evoluzione in un franchise redditizio appunto iniziò quando Milne, l'autore di Winnie the Pooh, vendette alcuni diritti all'agente letterario e padre dell'industria delle licenze Steven Schlesinger, spero di averlo pronunciato bene, nel 1930. Gattini. E, dopo la morte di Schlesinger, alcuni dei diritti dei Pooh sono stati poi trasferiti dai suoi eredi alla Disney. E dei Pooh, di Winnie the Pooh. Grande, scusate. Di Winnie the Pooh, dei Pooh. Plagio. Che non c'entrano nulla, poracci. Sono stati trasferiti quindi dagli eredi alla Disney, che ha rimosso anche i trattini, perché all'inizio il racconto era nato con Winnie trattino de trattino Pooh. La Disney ha detto no, questo non funziona, via, non va bene, non ci facciamo troppi soldi così. Quindi, e inoltre ha anche ampliato i media e il merchandising relativi all'orsacchiotto di pezza. E dopo una rissa legale durata decenni tra la Disney e gli eredi Schlesinger, la Disney ha avuto la meglio, guarda caso, e possiede a oggi ufficialmente i diritti d'autore e i marchi di Winnie the Pooh, che è diventato così una delle principali icone dell'universo Disney e uno dei suoi personaggi più redditizi fino ad oggi. E perché stanno finendo tutti. Capito che, sì, piano piano, ecco, diciamo che tutti le galline, le cose, sì, relative a Winnie the Pooh e di Pooh, pian piano entreranno appunto in pubblico dominio. Si sta cercando di capire se la Disney Corporation, che possiede appunto questo franchising miliardario di Winnie the Pooh, tenterà di impedire ai creatori indipendenti di adattare l'orso immaginario in nuove opere. Perché infatti, con l'eccezione del personaggio di Tigro, ve lo ricordate, Tigro? Come? è il mio preferito. Pure il mio, mi piaceva tanto. Che appare per la prima volta nel libro di Milne solo nel 1928. Tutto il resto, quindi la trama, i dialoghi, i personaggi della storia del 26, sono gratuiti. A oggi sono liberi. E quindi ciò potrebbe significare che storie aggiornate su Winnie the Pooh, Christopher Robin, Pimpi, il maialino, Tappo, il coniglio, ve li ricordate tutti sì, i personaggi? Sì, l'asino. Ah, l'asino non lo ricordo. Quello triste. C'era il gufo Uffa. Un po' malinconico. Non mi viene il nome dell'asino. No, che poi, anche a me. Che poi dicevano che ogni personaggio è associato, diciamo, a un aspetto emotivo della personalità. Un po', diciamo, il prequel di... Oddio, che è? Io! Un po' il prequel... Io! Scusa. Io! Ma chi è che fischiava? Dicevo io che? Io! E fischi vari. Ma sono io, no? Boh, comunque... E io! Niente, vabbè, volevo l'asino dire io. Questa cosa della, sì. della persona... Cioè, no, è vero, è molto bello comunque... il racconto di Winnie the Pooh, poi appunto ne sono state fatte diverse trasposizioni oppure in TV, cartoni, cinema e quant'altro, ma il racconto originale è veramente bello. E, tra l'altro, ho letto che racconta, cioè l'autore Milne si è ispirato alle storie vere e ai giochi del figlio Christopher. Era proprio lui. Incredibile. E quindi ragazzi, staremo a vedere, perché la lobby Disney, ecco il colosso Disney, potrebbe colpire ancora, decidere di prorogare ulteriormente i desideri, non so, con una ma un Gabri colpo... Gruber è sul pezzo no, e no, li inseguirà me... come Erin Brockovich. No, io intanto mi metto lì a aspettare il 2024 e vedremo cosa è accadrà pace. Con Topolino. Lo tieni d'occhio. Bene. Sì, bene. Ma il lasciato... caso, sì, questa diciamo parentesi di Cigni la si è conclusa, ma vogliamo dare voce al popolo. Volevo chiedere se c'era spazio per il popolo alle 18:41 su Radio Forte 100 Cell Avengers. Sono andata lunga. Ho messo un orologio lì a forma di Pac-Man, ecco. Che tutti siete invitati a guardare quando lo vedete, no? Lo vedete voi ascoltatori, vero? Certo. Quindi ma niente. Non lo vedo neanche io. Velocemente chiudiamo Cigni di Balacà con la parte quella più degenerata della trasmissione. Sempre con un Mickey, però. Meno seria, con un Mickey, ma prima riportiamo le istanze del popolo, e cioè una piccola vittoria del comunque sempre amato Albano, amato perché fa parte della nostra sigla. Torniamo nel campo del plagio. Per cui abbiamo che lui nel 1967 scriveva: e quei mostri degli ABBA di cui abbiamo parlato bene la scorsa settimana, anzi 200 settimane fa, hanno fatto questo. Negli anni 70, quindi chi vince? stanno a fregare tutti. Allora, niente, questo lo vogliamo riportare comunque per dare a Cesare chi è quello che è di Albano e anche introdurre infine quella che è la fiction riguardante i diritti d'autore, che vede protagonisti, ricordiamo, Paul McCartney e Michael Jackson nelle loro controversie, diciamo, commerciali su come investire i soldi, come insomma i proventi del loro successo, impiegare la propria ricchezza. Oggi nel 2022, in cui vediamo tanti artisti svendere il proprio catalogo, noi grazie a questo spaccato di vita degli anni 90, in cui Michael Jackson ancora era fra noi e Paul McCartney era nella sua discesa, diciamo, insomma, si incontravano in un crocevia strano di ascesa e discesa e parlavano di soldi, e noi abbiamo un altro documento dell'FBI che commenteremo a seguito. Vai. Cosa c'è stavolta? Poh, non capisco. È solo un ristorante, non ti agitare. Ma perché siamo venuti qui a spendere soldini? Non fare lo stupido. È una cena molto importante. Ah, sì? Oh, oh! Ma Paul, lo sai che non mi piace il sushi? Oh, non farti notare, Michael. Siamo in incognito. Oh, ancora? Ma... c'è qualcuno più importante di noi che ci vuole fare le scarpe. Chi sono questi signori? È il consiglio di amministrazione di una grossa azienda che vuole comprare i nostri diritti. Mangiate! Mangiate, mangiate, per carità! Non protestate! Anzi, sorridete! Oh, oh! Ma non con le mani, pazzi! Con le bacchette! Paul, ho paura! Non ti preoccupare, abbiamo un aggancio. Ah, sì? Si tratta di una vecchia amica. Più o meno. Eccola, mia cara. Siete in ritardo. Oh, perdonami, cara. Ti presento Mike. Michael, ti presento Yoko Ono. Molto piacere. Il consiglio sta per riunirsi. Oh. Shh. Ok, ok. Tanaka-san è scontento. Il consiglio discuterà nuove strategie per aumentare i ricavi. I soldini! Kobayashi-san ha inventato un nuovo supporto per la riproduzione musicale. Pensa che sarà un successo. Sostituirà il vinile e le cassette. Lo ha chiamato Compact Disc. お待たせいたしました。大変美味しいです。でも暑いですから、お触りにならないでください。2000度もありますから。 Hirogami-san propone di lanciare sul mercato una nuova console che possa competere con Nintendo e conquistare i giovani degli anni 90 con videogame in alta risoluzione. Lo ha chiamato PlayStation. Oh, oh. È il nostro momento. Ma cosa? Michael. Oh. Non ho idea di cosa. L'onorevole Matsumoto illustrerà al consiglio. Proposta 3. Na, Paul McCartney-san. Michael Jackson-san. Matsumoto-san ha inventato un algoritmo di produzione musicale che produce canzoni random utilizzando il nostro database di diritti d'autore. Ecco un esempio. Oh. Baby's good to me, you know she's happy as can be, you know she said so. Baby said she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. Oh, oh, Paul, questo è troppo. Smiley. Signori, signori. Io e il mio amico Paul pensiamo che non sia giusto che voi facciate così i vostri soldini. Non è onorevole. Dovreste comprare i diritti di qualche superhero. In America i comics sono molto famosi. Perché non comprate Spider-Man? Così potete rovinare lui. Invece di... Oh, andiamo. Oh, andiamo! Andiamo, Yoko! Stai ascoltando Radio Forte! ¡Estás escuchando Radio Fuerte, mijito! ¡Cento chele, Avenger! ¡Oh, ma! E sempre in diretta su Radio Forte, certo c'è gli Avengers. Mi sembrava di riconoscere nell'ultima parte del frammento un pezzo forse inedito per tutti, in cui Yoko Ono si esibiva insieme a Chuck Berry e John Lennon, ma Virgin non ha reagito, quindi vuol dire che il montatore dell'FBI ha lavorato male. No, no, non l'ho percepito. Questo era un fan service. Ma le mie orecchie hanno sanguinato comunque. Fan service, ho scoperto, è un termine di quelli che si usano nel gergo del cinema, dei nerd. Esatto, esatto. E che sono appunto quelle chicche fatte apposta per alcuni ascoltatori e o video cosatori. Che dovrebbero cogliere, non è andata, però insomma volevo dire che sempre a chiusura che comunque ci sono diversi fan service pronti lì ad essere colti all'interno della passata puntata di Paul e Mickey, la fiction che tutti amiamo, ma lo coglierete col tempo, ma ve lo dico, registrato, quindi sappiamo questa cosa. Ma questo è il momento, volevi dire qualcosa? Prego, no, volevo solo chiedere se si trattava di un edit quello che era boom, così lanciamo anche l'altro argomento. Vabbè, lanciamo un argomento futuro. Sì. sì andiamo avanti perché mancano tutto, 10 minuti. Tutto più o meno il 90% di quello che facciamo a 100 Cell Avengers è un edit, compresa quella sigla che adesso sto per lanciare, che apre in chiusura la rubrica Rise and Fall. La nostra relazione è terminata, insieme a te non ci sto più. Lasciamoci. Lasciarsi un giorno potresti dire addio. Lasciarsi e qui non ci sto. Vai. E improvvisamente stiamo di nuovo insieme. Stiamo insieme di nuovo. Che bellezza. La nostra banda vale di più. Lo manda. Ricominciamo. Siamo amici. Siamo sotto sotto la cenere. Ci saranno chi ti aspetta ancora. Ma che succede? Oh, e quest'oggi è la rubrica Rise and Fall, che tratta delle scioglimenti e reunion di gruppi musicali. Parliamo non di gruppi musicali, usciamo fuori dai binari soltanto per un attimo per condividere con voi quello che importa a molti, e cioè che è uscita la reunion Ritorno ad Hogwarts. Questa è una cosa che comunque colpisce perché ha una sua durata nelle generazioni, e vedi te stesso cresciuto, loro stessi cresciuti, e quindi ha un effetto. Altre reunion come quella di Friends magari avevano meno effetto. No, questa, Harry Potter. Cioè, voglio dire, no? Tanta roba e soprattutto ancora ci sto combattendo per finirmi a rivedere, perché è tutto sottotitoli, perché ovviamente che non è, hanno pure ridoppiata, è tutto in English con sottotitoli. Tu mi stai dicendo che vuoi che ti presti il cofanetto? Perché c'è il cofanetto, sì. Con c'è questa uscita, no, con questa no. Allora, la reunion è uscita adesso, non voglio dire tutto. Su quale piattaforma, perché stiamo già facendo una pubblicità al mainstream che fa imbarazzo, però questo è insomma è un nuovo evento che comunque la dice anche un po' lunga, come al solito, su quanto siano redditizie le reunion, soprattutto in certi casi. Qui hanno riacchittato tutta la scenografia dei film di Harry Potter, che non è esattamente acchittare la regia di Radio Forte, ma cioè hanno appeso le candele un'altra tanta volta, roba, finte candele che poi si squagliavano, tutti i racconti le che scale. Potrete cogliere quando ascolterete, quando vedrete questa bellissima nuova reunion. Ma in realtà io me la so tenuta una cosetta musicale per chiudere, diciamo, questo momento, e appunto parlare di coloro che sono venuti qui al Forte già sciolti, cioè sono venuti quando ancora non, cioè quando non erano più i At The Drive-In, ma erano i Mars Volta. Noi quindi li cataloghiamo con quegli artisti di cui auspichiamo la reunion, o comunque la reunion con venuta al Forte a suonare, e questa invece è One Arm Sister, di quando erano gli At The Drive-In. Is the vastness, hollow vacuum, choppy oxygen tanks. They hibernate, but have they kissed the ground? Pucker up and kiss the asphalt now. Tease this amputation, splintered larynx, shit has access now. Quattro ragazzi su radio forte e queste 100 c'è la Venge. Artisti del fade in e del fade out. Sempre. A 5 minuti dalla fine. A 5 minuti dalla fine io direi soltanto sigla. Vabbè, non sapevo che mi facevi sta cosa. Andiamo veloci con un treno. Come un treno. Colpi bassi sta per arrivare in versione molto ridotta. Pronti. Sigla. Ed in velocità andiamo a parlare dell'argomento, ovviamente sempre il 1951, ma stavolta senza una morte ma con una nascita. Perché che cosa riguarda questa rubrica? Riguarda il basso elettrico. E nel 1951 è ufficialmente nato il basso elettrico. Anche se dal 35. Quante coincidenze. È proprio veramente tutto insieme. E poi per la prima puntata dell'anno io direi che la nascita del basso elettrico è un po'. È un evento. Può essere un evento, ecco, è una roba. E il basso elettrico era già nato in modo non, diciamo, non in serie nel 1935. E il modello era l'Audiovox Model 736 Bass Fiddle da Paul Tutmark a Seattle. Mentre il primo basso in serie prodotto appunto nel 1951 è il famosissimo, imprescindibile e ancora non ce l'ho, quindi non mio, Fender Precision. Il primo basso appunto nato della storia. Perché Precision? Perché come evoluzione del contrabbasso, infatti il basso elettrico nasce con lo stesso identico ruolo di raccordo tra melodia, ritmo e armonia, aveva appunto, a differenza del contrabbasso, aveva però i tasti che lo rendevano più preciso nell'intonazione e da questo appunto, da questa precisione dell'intonazione è nato il suo nome. La nascita del basso elettrico è servita per fare proprio un cambio generazionale nella musica tra jazz e rock, perché era uno strumento finalmente portabile, semplicemente, e quindi nasceva per le band e non più per le big band o per le orchestre. Come esempio di bassista massimo del Fender Precision, che suonava un Fender Precision, noi troviamo il già citato James Jamerson. E niente, diciamo che volevo celebrare semplicemente la nascita di questo fantastico strumento che appunto mi riguarda personalmente come tutto quello che io dico qui. E avevo preparato, purtroppo non la potremmo mandare, no, non forse manca mancano troppo poco minuti. Esatto, non la possiamo mandare come sottofondo. Se poi ti metto questo che è Schoenberg, comunque, con lo sì. Quale abbiamo aperto. Come brano in realtà volevo mandare un brano del 51 che è del grandissimo Les Paul, quindi Scandalo oggi sarebbe andato in onda in colpi bassi invece un chitarrista. Ma andiamo avanti, passiamo alla conclusione di questa nostra puntata. Passiamo ai con, saluti, appunto, con i saluti e con la palla passa al nostro maestro con la M maiuscola. Oh, maestro. Sulle note di Les Paul. Ah, ma allora c'è, è vero. Ma ti pare che noi ti facciamo chiudere così colpi bassi a tradimento? E mo con chitarrista. Okay. Noi in quest'ultimo minuto ricordiamo che la puntata bellissima che avete sentito è anche in podcast sul sito fortepenestino.net. Che niente, che abbiamo avuto anche dei contributi da parte dei nostri amici tramite vocale, che però non possiamo condividere perché siamo veramente negli ultimi scampoli di partita, circa 20 secondi alla fine. Ce la teniamo per la prossima. Noi torneremo, certo, ormai con un ritmo di nuovo anno quindicinale come sempre, quindi fra 15 giorni in diretta su Radio Forte dallo Scantinato. E niente, sempre dalle 17 alle 19. Volete condividere un qualcosa da dire? Io volevo dire l'ultima cosa. Prego. Salutare sempre con una nascita. E oggi, cioè anzi non oggi, il 29 gennaio 1951 c'era il primo svolgimento dell'evento Festival di Sanremo, ragazzi. Per noi che siamo, ecco, musicanti. Questo è come ieri quando c'era il brainstorming e mi viene il dubbio che non abbiate capito il meccanismo dei 70 anni. E assolutamente no. Ci siamo tutti concentrati sul 51 come nostro anno di A mia discolpa me l'hai detto tu di fare questi argomenti. Però questo celebriamo anche una nascita, era dai, solo per generare discussione. Barbara, so che questo funziona sempre. Allora, un saluto, amici. Niente, alle 19 noi, nonostante il nostro tempo sia ancora apparentemente non finito, vi salutiamo, è perché finito. È finita. È finito, sì. E quindi sigla. Ciao.